dal giovedì alla domenica il festival. Quest'anno abbiamo un'assoluta novità, perché nella prima serata abbiamo questo fenomeno che si chiama Mono Neon. Negli spot che abbiamo fatto abbiamo preso il 50% di nomi, come dicono a Bologna, perché si presenta questo ragazzo vestito, la nonna lo ha vestito con abitini da uncinetto perché lui è autistico, e da piccolino la nonna era l'unica persona che riusciva a parlare con questo ragazzo, il figlio di Dwayne Thomas. Dwayne Thomas ha vissuto 18 anni a Porretta per tornare poi a Memphis. È stato l'ultimo artista a lavorare con Prince, sta lavorando con il Gotha, Marcus Miller, con un sacco di artisti di tutto il mondo, sarà presente al Monterey Jazz Festival, all'AIA, al North Sea Jazz Festival, e torna a Porretta dopo aver debuttato 15enne quando venne con i ragazzi dell'Accademia della Stax nel 2006. Poi nella stessa serata avremo i Lehman Brothers, avremo la House Band che è stata qua per 7 anni, quella di Anthony Paul dalla Bay Area. Quest'anno torniamo a Memphis come House Band, avremo i Bokees, che è la band più qualificata ad accompagnare pezzi da 90 come Bobby Rush, 2 Grammy Award, 90 anni il 30 di aprile, fa dei salti ancora così, anzi salta molto più di me. Un'altra leggenda, ha preso 6 nomination ai Blues Awards, si chiama John Emmett, doveva già venire lo scorso anno ma ha avuto una grossissima operazione, è tornato in formissima e sarà qua con la moglie. Altro personaggio, Carti Salgado è stato il mentore di John Belushi, da quando è arrivato a Porretta è la quarta volta che viene, perché dicono ma come, tutti gli anni tu lo porti, personaggio incredibile veramente, è stato il cantante per tanti anni di Robert Cray e sta facendo una carriera brillantissima. Abbiamo un duo molto interessante, si chiamano Blues Paddlers, è un duo alla Sam & Dave e esordirà col proprio disco diretto da Bobby Manuel proprio a Porretta. Robin McKill sta facendo un tributo a Ella Fitzgerald nella versione jazz. Invece a Porretta, siccome nel 2012 conobbe questi Bokees, si misero insieme, ha fatto un bellissimo disco nel 2012, torna perché loro tornano a Porretta, per cui stacca un attimino dal suo giro normale e viene a Porretta. Le coriste tornano, 2 ragazze che hanno fatto l'ultimo tour con Dee Bridgewater, le Norman Sister, che sono eccellenti queste ragazze. Abbiamo veramente un repertorio incredibile di artisti. Concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 7 di sera a Rufus Thomas Café, cioè il palco in piazza. Abbiamo assoldato una marching band, si chiama Oversoul. Rispetto ai Fantkopf, che molti vedono a Umbria Jazz, questi sono in 15. Hanno un cariolino con un amplificatore perché hanno una ragazza che ha la voce, quindi che abitano quasi tutti vicino a Perugia, e quindi la peculiarità che si portano dietro un cariolino con gli amplificatori per dare la possibilità di amplificare la voce. Abbiamo la presentazione di 2 libri, uno che è molto importante, è la biografia di Rufus Thomas, l'autore è un inglese che è diventato famoso per aver scritto la biografia di un beniamino dei jazzofoli bolognesi che abbiamo qui, e verrà a Porretta, verrà presentato questo libro, e ci sarà anche Baciocchi che presenterà il suo libro sul Northern Soul. L'anno scorso abbiamo sperimentato la Chiesa dei Cappuccini, l'anno scorso abbiamo chiamato i Joy Gospel Choir integrati, è un gruppo veramente un gruppo eccellente bolognese, e loro l'anno scorso hanno ospitato alcuni artisti americani, quest'anno ospiteranno le Norman Sisters, e l'esibizione ci sarà la Chiesa dei Cappuccini proprio nel centro di Porretta la domenica mattina alle 11. Altre cose interessanti che proseguiamo in collaborazione con l'Unione dei Comuni ai concerti che seguono al Porretta Soul Festival, un grosso gruppo di musicisti in una jam come facevano a quelle dell'Apollo a Vergato il lunedì sera 24, martedì 25 a Tolè, e per la prima volta il 26 andiamo a Monte Acuto delle Alpi. A Monte Acuto andiamo con Crystal Thomas, che è un artista di Austin, Texas, accompagnata da una band in parte italiana, avremo Luca Giordano che ormai è un abitué del Porretta Soul Festival, e gli altri sono americani. L'altra cosa interessante è che nelle notti tra venerdì e sabato, e sabato e domenica, avremo i Pullman che riportano chi non riesce ad alloggiare a Porretta a Bologna.